Subito dopo aver eseguito la recitazione della prima sura del sublime Corano, il Musalli recita almeno tre ayat. E qui di seguito faccio la recitazione di alcune sure brevi che si trovano alla fine del sublime Corano. La sura del pomeriggio, Suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Che significa: per il pomeriggio, in verità l'uomo è di certo in rovina, tranne coloro che credono, praticano le opere buone e a vicenda si esortano al vero e a vicenda si esortano alla pazienza. Sura 105, Suratul Fil, la sura dell'elefante. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaja'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratim min sijjil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e clementissimo, non hai visto cosa fece il tuo Signore ai possessori dell'elefante? Non fece forse fallire il loro piano? Egli mandò su essi a ondate successive stormi di uccelli che fecero cadere su loro una pioggia di pietre d'argilla e li ridusse come pula dopo la battitura. Sura 106, Sura dei Coreisciti. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi Quraish. إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e clementissimo, per l'unione solidale dei Quraysh, quella loro unione solidale per la carovana dell'inverno e per quella dell'estate, adorino il Signore di questo santuario, il quale ha dato loro cibo proteggendoli dalla fame e ha dato loro sicurezza liberandoli dalla paura. Capitolo 108, la sura dell'abbondanza. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e clementissimo, in verità noi ti abbiamo dato il Kawthar. Perciò esegui il rito dell'adorazione del tuo Signore ed immola vittime sacrificali. In verità, colui che ti diffama è mutilato. Sura 109, Suratul Kafirun, la sura di coloro che rifiutano di credere. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun La a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma a'bud wa la ana a'abidum ma a'abattum wa la antum a'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din, che significa: nel nome di Allah il sommamente misericordioso il clementissimo, di o voi che rifiutate di credere, io non adorerò ciò che voi adorate e voi non sarete adoratori di ciò che io adoro, io non sarò adoratore di ciò che voi adorate e voi non sarete adoratori di ciò che io adoro. A voi la vostra religione e a me la mia. Sura 110, la sura del soccorso, Suratul Nasr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Idha jaa nasrullahi wal fatah. Wara رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e clementissimo. Quando giunge il soccorso di Allah e la vittoria, e tu vedi gli uomini entrare in massa nella religione di Allah, proclama la lode di Lui, l'incondivisa deità del tuo Signore, e chiedigli perdono. In verità, Egli è colui che facilmente perdona. Sura 112, Suratul Ikhlas, o della devozione completa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e clementissimo, di Allah è unico, Allah è as-samad. Non generò lui, né fu lui generato. Nessuno è coeguale a lui. Sura 113, la sura dell'aurora. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Nel nome di Allah il sommamente misericordioso e clementissimo, di chiedo protezione al Signore dell'aurora dal male che proviene da ciò che creò, dal male che si nasconde nel buio della notte quando è fonda, dal male delle soffianti sui nodi e dal male dell'invidioso quando è in preda all'invidia. Sura 114, sura degli uomini, ultima sura del sublime Corano. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo, di chiedo protezione al Signore degli uomini, Re degli uomini, Dio degli uomini, contro il male del sussurratore furtivo che si tira indietro, il quale sussurra nei petti degli uomini, sia egli del genere dei jinn,